Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Passaggio in India, di Edward Morgan Forster. Traduzione di Adriana Motti. Aziz non era andato alla festa ponte. Subito dopo il suo incontro con Mrs. Moore, fu preso da altre cose. Si presentarono parecchi casi chirurgici e lo tennero occupato. Cessò di essere sia un fuori casta sia un poeta e ridiventò lo studente di medicina molto allegro, una miniera di aneddoti chirurgici che riversava nelle riluttanti orecchie degli amici. E poi, proprio quel giorno, cadeva l'anniversario della morte di sua moglie. Quando era morta, egli aveva appena cominciato ad amarla, perché non l'aveva amata subito. Contagiato dalla sensibilità occidentale, gli era dispiaciuto di unirsi con una donna che non aveva mai vista, e quando poi l'aveva vista, ne era stato deluso, e aveva messo al mondo il suo primo figlio per mera animalità. Il cambiamento era cominciato dopo quella nascita. Egli era stato vinto dall'amore della moglie, da quella fedeltà che esprimeva qualcosa di più della sottomissione, e dal suo sforzo per prepararsi a eliminare il velo, come sarebbe toccato alla prossima generazione, se non alla loro. Era intelligente e tuttavia d'una grazia antiquata, e a poco si dileguò in lui il sentimento che i genitori gli avessero fatto una cattiva scelta. Il piacere sensuale, anche ammesso che ci fosse, si sarebbe affievolito in un anno, e in cambio lui aveva ottenuto qualcosa che pareva accrescersi via via che vivevano insieme. Lei divenne madre di un maschio ed era morta nel dargliene un secondo. Allora lui capì quello che aveva perduto e che nessuna donna avrebbe potuto prendere quel posto. Un amico gli sarebbe parso meno dissimile da lei che qualunque altra donna. Se n'era andata, come lei non ce n'era nessuna. Ma che è quest'unicità se non amore? Lui si divertiva, talvolta la dimenticava, ma altre volte sentiva che con lei tutta la bellezza e la gioia del mondo se n'erano andate in paradiso, e allora meditava il suicidio. L'avrebbe ritrovata oltre la tomba? Esiste un simile luogo di ritrovamento? Per quanto credente, non lo sapeva. L'unità di Dio era indubitabile e rivelata di là da ogni dubbio, ma su tutti gli altri punti Aziz oscillava come la media dei cristiani. La sua fede nella vita a venire si estenuava in una speranza, svaniva, ricompariva, e tutto questo in una sola frase o in qualche battito del cuore, sicché pareva che fossero le cellule del suo sangue, più che lui medesimo, a decidere quale idea dovesse abbracciare e per quanto tempo. Lo stesso accadeva per tutte le altre sue idee. Niente durava, niente passava che non tornasse. Era un circolo incessante, lo manteneva giovane, e lui piangeva la moglie più sinceramente quanto più di rado la piangeva. Padani zare gare gare, nizare nida. Sajana na nahi aena. Sarebbe stato più semplice dire al dottor Lal che su quella festa aveva cambiato parere, ma fino all'ultimo non aveva saputo di aver cambiato parere. Non era stato lui a cambiarlo, si era cambiato da sé. Era insorta una ripugnanza invincibile. Le signore Callender, le signore Leslie, no. Non poteva sopportarle nel suo dolore. Quelle l'avrebbero indovinato. perché lui attribuiva alle madame inglesi uno strano intuito e si sarebbero divertite a torturarlo, a farsi gioco di lui coi loro mariti. Nel momento in cui doveva essere pronto, si trovava all'ufficio postale per fare un telegramma ai figli. Al suo ritorno seppe che il dottor Lal aveva cercato di lui e se n'era andato. Bene, andasse pure. La cosa si attagliava alla sua rozza indole. Per parte sua se ne sarebbe stato con la morta. E aperto un cassetto, ne trasse la fotografia della moglie. La fissava e dagli occhi gli sgorgavano le lacrime. Pensava: come sono infelice. Ma siccome era veramente infelice, un altro sentimento non tardò a mescolarsi con la commiserazione di se stesso. Voleva ricordare la moglie e non ci riusciva. Perché riusciva a ricordare le persone che non amava? Gli si presentavano sempre così vivide, mentre quella fotografia più la guardava e meno la vedeva. E così lei gli era sempre sfuggita dal giorno che l'aveva accompagnata alla sua tomba. Aveva capito che lei si sarebbe dileguata dalle sue mani e dai suoi occhi, ma pensava che sarebbe sopravvissuta nella sua memoria, senza rendersi conto che proprio il fatto d'averli amati rende i morti ancora più irreali e che quanto più appassionatamente li invochiamo, tanto più loro si allontanano. Quando Azizza ricevette un biglietto col francobollo governativo, gli parve una bomba che al minimo tocco poteva ridurre in briciole il suo bungalow malandato. Di certo lo licenziavano perché non si era fatto vedere al ricevimento. Quando aprì il biglietto, scoprì che si trattava di tutt'altro. Era di Mr. Fielding, il direttore dell'istituto, che lo invitava al tè per posdomani. Il suo entusiasmo si riaccese con fuoco. E si sarebbe riacceso comunque, perché egli possedeva un'anima capace di sopportare, ma non di soffocare, e dietro la sua incostanza conduceva una vita uniforme. Ma quel biglietto lo rallegrò particolarmente, perché Fielding lo aveva già invitato al tè un mese prima e lui se n'era dimenticato. Non aveva risposto, non si era fatto vedere, se n'era proprio dimenticato. Ed ecco un secondo invito, senza un rimprovero, senza la minima allusione alla sua scorrettezza. Questa era vera cortesia. Il tratto signorile che rivela il buon cuore. E afferrata la penna, Azizze scrisse una risposta affettuosa e si precipitò da Hamidullah per avere informazioni. Perché non aveva mai conosciuto il direttore ed era convinto che l'unica grave lacuna nella sua vita ormai sarebbe stata colmata. Voleva sapere tutto di quell'uomo meraviglioso, stipendio, gusti, passato e come fare a piacergli. Ma Hamidullah era ancora fuori. E Mahmoud Ali, che si trovava lì, non seppe far altro che una stupida canzonatura della festa ponte. Suhana safar aur ye mausam haseen, Suhana safar aur ye mausam haseen, humme rahe humko na jaaye kahin. Suhana safar aur ye mausam haseen. Mr. Fielding era stato una tarda preda dell'India. Era già oltre i 40 quando aveva varcato quella stranissima porta d'ingresso che è la stazione Victoria di Bombay, e dando una mancia a un controllore europeo aveva caricato il bagaglio nello scompartimento del suo primo treno tropicale. La sua carriera, quantunque accademica, era stata ricca di esperienze, inclusa quella di andare in rovina e di pentirsene in seguito. Era un uomo tenace, di buon carattere, intelligente, con una fede profonda nell'insegnamento. Non gli importava a chi dovesse insegnare. Sulla sua strada era capitata gente d'ogni specie, ragazzi della scuola di Stato, minorati mentali, poliziotti, e lui non aveva alcuna obiezione a metterci anche gli indiani. Grazie alle raccomandazioni di certi amici, era stato nominato direttore del piccolo istituto di Chandrapur. Ci si trovò bene e immaginò di aver successo. Ne aveva coi suoi allievi, ma l'abisso tra lui e i suoi connazionali si allargò in modo penoso. Non capì a tutta prima che cosa zoppicasse. Non era antipatriottico. In Inghilterra era sempre andato d'accordo con gli inglesi. Tutti i suoi migliori amici erano inglesi. E allora perché qui non succedeva lo stesso? Massiccio e irsuto d'aspetto, con membra cascanti e occhi azzurri, pareva ispirare fiducia finché non apriva bocca. Allora qualcosa nei suoi modi sconcertava la gente e non riusciva mai a stornare la diffidenza connessa naturalmente con la sua professione. La calamità dell'intelligenza era inevitabile in India, ma guai a chi si adoperava ad accrescerla. La sensazione che Mr. Fielding fosse una forza disgregatrice prese piede. E giustamente, perché le idee sono fatali alla casta, ed egli usava le idee col più formidabile dei mezzi, lo scambio. Non essendo né un missionario né uno scienziato, trovava la massima gioia nel dono reciproco di una conversazione privata. Era convinto che il mondo è un globo di uomini che si sforzano di raggiungersi a vicenda e che possono riuscirci molto meglio con l'aiuto della buona volontà sommata all'intelligenza e alla cultura, una fede poco adatta a Chandrapur, ma lui era arrivato là troppo tardi per rinunciarvi. Di regola, nessuna donna inglese metteva piede nell'istituto se non in veste ufficiale. E Fielding aveva invitato al tè Mrs. Moore e Miss Quested solo perché erano nuove arrivate che avrebbero guardato ogni cosa superficialmente ma con occhi imparziali e che parlando con gli altri suoi ospiti non avrebbero assunto uno speciale tono di voce. L'istituto vero e proprio era stato buttato giù dal Dipartimento dei Lavori Pubblici, ma la proprietà comprendeva un antico giardino e un padiglione dove lui abitava quasi tutto l'anno. Si stava rivestendo dopo un bagno quando fu annunciato il dottor Aziz. Ad alta voce gli gridò dalla camera dal letto: «Fate come se foste a casa vostra!» Era stata una frase senza premeditazione, come quasi tutto quello che faceva. Gli era venuto da dire così. Per Aziz ebbe un significato molto preciso. «Posso davvero? Mr. Fielding? Siete molto buono!» gridò di rimando. «Mi piace molto quando si tratta senza cerimonie!» Tutto acceso di entusiasmo si mise a guardare la sala. Un certo lusso, ma di ordine nemmeno l'ombra. Niente che intimidisse i poveri indiani. «E il fatto è che desidero da tanto tempo di conoscervi!» continuò. «Il Nawab Bahadur mi ha tanto parlato della vostra cordialità, ma dove ci si può incontrare? In uno squallido buco come Chandrapur?» Si avvicinò alla porta. «Quando ero nuovo di qui, state a sentire, mi auguravo sempre che vi ammalaste, e così ci saremmo conosciuti!» Risero, e incoraggiato dal successo, Aziz cominciò a improvvisare. «Mi dicevo, che aspetto avrà stamattina Mr. Fielding?» «Un po' pallido, mi sembra, e anche il chirurgo civile è pallido. Non potrà curarlo quando cominceranno i brividi. Dovranno chiamare me. E allora avremmo avuto delle bellissime conversazioni, perché avete fama di essere un esperto di poesia persiana. Mi conoscete, allora?» «Ma certo, certo, e voi mi conoscete?» Ah, lo riconosco benissimo, di nome. Prima di venire qua, indovinate che aspetto. Sarà una specie di gioco. Siete alto 1,75 m? Disse Fielding, valutandolo approssimativamente attraverso il vetro opaco della porta. Bravissimo! E poi? Non ho una venerabile barba bianca? Maledizione! Qualcosa che non va? Ho pestato il mio ultimo bottone da colletto. Vi do il mio! Ne avete uno di riserva? Sì, sì, un momento. Ma se è quello che portate, no. No, ne ho uno in tasca. Tirandosi da una parte perché non si vedesse la sua sagoma, si staccò il colletto e tolse dalla camicia il bottone posteriore, un bottone d'oro, gemello di un paio che suo cognato gli aveva portato dall'Europa. «Eccolo qua!» esclamò. «Venite a portarmelo, se non vi sembro troppo confidenziale!» Si strinsero la mano sorridendo. Aziz cominciò a guardarsi intorno come avrebbe fatto con un vecchio amico. Quell'intimità così istantanea non meravigliò Fielding. Con gente tanto emotiva si raggiungeva subito o mai più. Lui e Aziz, non avendo sentito che dir bene l'uno dell'altro, potevano permettersi di fare a meno dei preliminari. Ma io avevo sempre creduto che gli inglesi tenessero le loro stanze in ordine perfetto. Pare che non sia così. Allora non ho poi tanto da vergognarmi. E si sedé tutto allegro sul letto, poi, senza più contenersi, si accomodò meglio accovacciandosi sulle gambe. «Due signore verranno al tè per incontrarsi con voi. Credo che le conosciate», disse Fielding. «Con me? Io non conosco nessuna signora». «Come, non conoscete Mrs. Moore e Miss Quested?» «Ah, sì, ora ricordo». L'episodio nella moschea si era cancellato dalla sua memoria non appena era finito. «Ah, una signora molto, molto anziana. Ma vi spiace di ripetermi il nome della sua compagna? Miss Quested?» «Come volete voi». Era deluso che venissero altri, perché avrebbe preferito stare solo col suo nuovo amico. «Oltre alle signore, aspetto uno dei miei assistenti, Narayan Godbole». «Oh, il bramino del Deccan! Sapete che cosa dicono? Che l'Inghilterra ha preso l'India a loro, capite? Non ai Mogul. Non è degno della loro faccia tosta? Hanno perfino pagato perché lo si stampasse nei libri di testo. Sono molto astuti e immensamente ricchi. Però, da quel che sento, il professor Godbole deve essere molto diverso dagli altri bramini del Deccan. Un tipo molto sincero». Perché anche voi indiani non fate un circolo qui a Chandrapur? Un giorno, chissà. Ah, ma vedo che stanno arrivando Mrs. Moore e Miss... come si chiama lei? Che fortuna che si trattasse di un ricevimento senza cerimonie, dove le formalità sono escluse. In questo modo Aziz riuscì a parlare agevolmente con le signore inglesi, le trattò come uomini. La bellezza l'avrebbe turbato perché comporta regole particolari, ma Mrs. Moore era così vecchia e Miss Quested così brutta che questa preoccupazione gli fu risparmiata. Ai suoi occhi il corpo angoloso e le lentiggini di Adela erano difetti terribili, ed egli si stupiva che Dio avesse potuto mostrarsi così ingiusto verso una forma femminile. Perciò il suo atteggiamento rimase del tutto oggettivo. «Voglio domandarvi una cosa, dottora Aziz», cominciò Adela. «Mrs. Moore mi ha detto di che aiuto le siete stato nella moschea e come l'avete interessata. Sull'India ha capito più in quei pochi minuti di conversazione con voi che nelle 3 settimane da quando siamo sbarcate». «Per favore, non parlate di questa piccolezza! Guardate piuttosto questa bella sala!» Ah, quanto vorrei vivere qui! Ammiriamola un poco insieme. Guardate quelle sagome alla base degli archi. Come sono gentili. È l'architettura della domanda e risposta. Mrs. Moore, voi siete in India! Non sto scherzando! La sala lo ispirava. Era una stanza da udienze costruita nel XVIII secolo per qualche alto funzionario, e quantunque di legno a Fielding aveva ricordato la loggia dell'Anzi a Firenze. Piccole stanze, ora europeizzate, le si annettevano dalle due parti, ma la sala centrale era priva di tappezzeria e di vetri, e l'aria del giardino vi si riversava liberamente. Si stava seduti in pubblico, in vetrina, per così dire, sotto gli occhi dei giardinieri che gridavano contro gli uccelli e dell'uomo che aveva in affitto la cisterna per la coltivazione delle castagne d'acqua. Fielding dava in affitto anche i manghi, Dio solo sapeva chi non potesse entrare, e i servi stavano seduti giorno e notte sugli scalini per tener lontani i ladri. Aziz proseguiva. «Ma state ammirando la casa di Mr. Fielding? Guardate come sono dipinti d'azzurro i pilastri e le cupolette del portico, come le chiamate voi? Quelle che ci stanno sul capo sono azzurre anche loro. Guardate gli intagli nelle cupolette, pensate quante ore ci sono volute. I loro piccoli tetti sono incurvati per imitare il bambù. Che grazia! E anche i bambù che oscillano fuori presso la cisterna. Mrs. Moore! Mrs. Moore!» Aziz adesso era molto euforico, parlava come un mulino a vento e diceva persino accidenti quando si imbrogliava nelle frasi. L'arrivo del professor Godbole lo calmò un poco, ma quel pomeriggio rimase suo. «Vi invito tutti a venirmi a trovare alle grotte Marabar!» «Ne sarò lietissima! Ma questo è un trattenimento splendido in paragone coi miei poveri dolci! Ma Miss Quested non ha già visitato le nostre grotte?» disse Godbole. «No, non ne ho nemmeno sentito parlare!» «Nemmeno sentito!» gridarono entrambi. «Le grotte Marabar? Nei monti Marabar?» «Non si sente dire nulla di interessante al circolo, solo tennis e ridicole chiacchiere!» Godbole rimase zitto, forse perché gli parve sconveniente che lei criticasse la propria razza, forse perché, dandole ragione, temeva che lei l'avrebbe tacciato di slealtà. Ma il giovane disse rapido: «Lo so! Allora ditemi tutto quello che vi viene in mente, se no non capirò mai l'India! Si tratta dei monti che vedo qualche volta la sera? Che cosa sono queste grotte?» Aziz si mise a spiegare, ma in breve fu chiaro che non aveva mai visitato le grotte nemmeno lui. L'intenzione ce l'aveva sempre avuta, ma il lavoro o i suoi impegni personali gliel'avevano impedito. E poi erano così lontane. Il professor Godbole lo prese garbatamente in giro. «Mio caro giovanotto, chi predica e chi razzola? Avete mai sentito questo proverbio?» «Ma sono grandi quelle grotte?» domandò Miss Quested. «No, grandi no.» «Descrivetecele, professor Godbole.» «Onoratissimo.» Avvicinò la sedia e gli venne sulla faccia un'espressione tesa. Prendendo il portasigarette, Miss Quested lo porse ai due uomini e accese una sigaretta anche lei. Dopo una pausa d'effetto, Godbole disse: «C'è un'entrata nella roccia, e di lì si entra, e dall'altra parte dell'entrata c'è la grotta.» «Un po' come le grotte di Elefanta?» intervenne Fielding. «Oh no, affatto. A Elefanta ci sono statue di Shiva e Parvati. Non ci sono statue a Marabar.» «Devono essere luoghi molto sacri», disse Aziz per facilitare il racconto. Oh no, affatto. Ma ci sarà qualche decorazione, disse Fielding. Oh no, affatto. Ma allora perché sono tanto famose? Parliamo tutti delle famose grotte Marabar. Forse è una delle nostre vanterie sconclusionate, intervenne Aziz. No, questo non direi proprio. Descrivetele alla signorina, allora. Felicissimo. Pregustava quel piacere. E Aziz capì che stava tacendo qualcosa sulle grotte. Lo capì perché anche lui soffriva spesso di inibizioni simili. A volte con grande esasperazione del maggiore Callendar, in una questione prescindeva dal solo fatto di rilievo per sottolineare i 100 trascurabili. Il maggiore lo accusava di falsità, e all'ingrosso aveva ragione, ma solo all'ingrosso. Si trattava piuttosto di una forza che egli non poteva dominare e che senza un motivo riduceva al silenzio la sua mente. Godbole adesso era stato ridotto al silenzio, certo senza volerlo, ma stava nascondendo qualcosa. Manovrato con abilità, poteva riprendere il controllo e dichiarare che le grotte Marabar erano piene di stalattiti, forse. Aziz cercò di metterlo per questa strada, ma le stalattiti non c'erano. Il dialogo si manteneva agile e amichevole, e Adela non aveva nemmeno idea di quel che vi circolava sotto. Non sapeva che la mente abbastanza semplice del musulmano stava affrontando l'antica notte. Aziz faceva un gioco emozionante. Stava manovrando un giocattolo umano che rifiutava di funzionare. Questo arrivava a capirlo. Se avesse funzionato, né lui né il professor Godbole ne avrebbero avuto alcun vantaggio, ma quel tentativo lo affascinava ed era analogo al pensiero astratto. E chiacchierava, e ad ogni mossa era sconfitto da un avversario che non avrebbe nemmeno voluto ammettere che era stata fatta una mossa, ed era più che mai lontano dallo scoprire che cosa semmai ci fosse di straordinario nelle grotte Marabar. Sandro Lombardi ha letto Passaggio in India di Edward Morgan Forster. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.